Il problema è quello anche comportamentale, cioè Prandelli secondo me è stato costretto a chiamarlo, perché comunque è un giocatore che è difficilmente gestibile. Io Bogliasco, ho visto delle scene, le garantisco, è veramente difficile da gestire. E le faccio un esempio: guardi, a Bogliasco tutti i calciatori lasciavano la macchina fuori dal recinto perché la società voleva che i giocatori fossero a contatto col pubblico, firmassero autografi. Lui era l'unico che metteva la macchina dentro, e una volta ho visto che era diventato un... Ma ce ne sono mille di questi episodi legati a Cassano, però allora anche da questo punto di vista in nazionale la situazione è diversa. Anche Balotelli, che fuori dalla nazionale ha avuto pure i suoi mille casini, lì l'ambiente è differente. Io credo che ci sia stato un certo ostracismo nei confronti di Cassano da parte di alcuni senatori, onestamente, quindi questo è stato un ostacolo da superare. Non credo che Prandelli se lo fosse dimenticato. Damblè l'aveva lasciato fuori dalla nazionale, ma evidentemente c'erano altri problemi. Questo è un punto. Il secondo punto è che davvero, ma non sono parole di circostanze, non sono favole, Cassano sia al top della maturità, e mi fa specie usare questo tipo di parola per accostandolo a uno come Cassano, però è così. In questa stagione al Parma ha avuto... è stato perfetto in campo e fuori. È vero, come insegna la Piantarida, che ha giocato 18 partite intere su 34 quest'anno, però non è mai stato così in condizione. Dunque credo che un ambiente come quello della nazionale e un mondiale, che è ovviamente l'ultima chance per Cassano, anche per uno come lui è il grande sogno, possa metabolizzare ogni comportamento bizzarro. Di conseguenza io sono convinto che farà molto bene. Sono convinto che farà molto bene, sta facendo molto bene già dalla preparazione, perché se ci avete fatto caso è giocatore su cui sono state spese, anche dal punto di vista fisico, anche dal professor Castellacci, le parole più più positive. Da subito è stato detto: mai visto così brillante, penso che farà un grande mondiale, meno me lo auguro. Stefano, provincia di Monza. Sì, ciao. Senti, io ti voglio dire questo. Allora, due considerazioni. Allora, prima, per quanto riguarda Prandelli, nel caso Rossi, perché secondo me Prandelli doveva essere più deciso, avere un po' più di palle come allenatore. Sì. Perché, sai, quando tu devi decidere dei giocatori da convocare per un mondiale, devi essere netto e devi dare delle spiegazioni, come posso dire. Io ho deciso di non convocare Rossi, perché comunque Rossi, o per scelta tecnica, o per problemi fisici, o per qualsiasi motivo, devo dare una motivazione giusta, ecco, era quello che volevo dire. Volevo sapere da te un attimino cosa allora Stefano. Perché un allenatore, scusami, comunque, se si dimostra così buonista, cioè, non lo so, io non è che lo vedo tanto bene. Quindi, per me, Prandelli doveva avere un po' più di palle e beh, ma deve parlare stasera, però Stefano, Prandelli parla stasera mi sembra alle 5:30, alle 17:30 c'è la conferenza stampa di Prandelli. Io credo che avrà qualcosa da dire, da spiegare. Credo che non tirerà indietro la gamba su questo tipo di spiegazione. Fino adesso abbiamo sentito la voce, o meglio letto il tweet di Giuseppe Rossi, che dal suo punto di vista ha fatto benissimo, e rispetto profondamente questo, nel non nascondersi, ma nel dire: ok, io sto bene, se mi hanno lasciato fuori è scelta tecnica, ok? Quindi questo ha detto Giuseppe Rossi, questo hanno detto quelli che gli stanno intorno, dicevo prima, di Pastorello, eccetera. Adesso sentiremo la voce, la spiegazione di Prandelli. Intanto abbiamo già, ed è di oggi, la spiegazione di Castellacci, medico della Nazionale, su Giuseppe Rossi, questa. Da un punto di vista medico lui stava abbastanza bene, onestamente aveva recuperato abbastanza bene. Da un punto di vista fisico, che non fosse nelle condizioni ottimali, questo era chiaro a tutti, però insomma aveva recuperato abbastanza bene, sì. Ma questo nessuno l'ha mai negato, insomma, voglio dire, nessuno ha mai negato questo. Poi sono state delle decisioni di tipo tecnico, di tipo fisico, di tipo psicologico, insomma sono decisioni pesanti che il mister ha dovuto sopportare, cioè, non facili, ecco, non facili, sicuramente non facili, ma certamente il tutto è stato fatto senza il minimo di superficialità, su questo ve lo posso garantire, ma esaminando veramente tutto a livello più capillare possibile. Quindi questa è la spiegazione sul fronte fisico data dal responsabile medico della nazionale, mi sembra sia molto chiaro. Prandelli alle 5:30 certamente ci dirà qual è la sua versione dei fatti. Marco da Mantova, buongiorno. Sì, buongiorno. Io vi ho sentito prima e voi facevate la contrapposizione tra Totti e Rossi. Sì. Io credo che un Totti in campo anche al 60% dia un po' più fastidio che un Rossi, tra virgolette. Però una cosa ho notato, che non si è mai più parlato dell'infortunio Montolivo, dei problemi che si possa avere a centrocampo senza Montolivo. Credo che Montolivo, la mio esperto giudizio di solo un telespettatore, che non è che sia così importantissimo per il centrocampo dell'Italia. Punto di domanda. Cioè, lei dice che Montolivo è importante, che è un giocatore determinante? No, credo che non è che se manca Montolivo il centrocampo sia zoppo, ecco. No, è un giocatore che, allora, è un giocatore che magari ha l'idea di Prandelli, è un suo scudiero, certamente è un suo scudiero, ogni allenatore ha i suoi, allora del cielo, però non è quello che ti fa fare il salto di qualità. Anche secondo me, non ha mai fatto fare il salto di qualità. Allora, attenzione, ripeto quanto ho detto ieri, ma quello che è il mio pensiero lo dico sempre su Montolivo. Ha giocato una grandissima stagione l'anno scorso, tanto che secondo me era stata una scelta corretta, ma anche dal punto di vista della personalità. Non la stagione appena chiusa, ma ovviamente quella prima, aveva giocato la prima nel Milan, ha fatto un grandissimo campionato, anche dal punto di vista appunto una personalità che gli ha permesso, scelta che secondo me era corretta, di guadagnarsi la fascia di capitano in quella squadra. In questa stagione a me onestamente Montolivo non è piaciuto quasi mai, ha giocato sottotono, ha giocato una stagione abbastanza da ragioniere del centrocampo e senza lampi, senza scintille, eccetera. Chiaramente quanto gli è successo a Londra rientra nel capitolo sfiga nera contro la quale nulla si può. Sarà un problema dal punto di vista tattico? Credo di sì. Cambierà tutto l'assetto della nazionale? Questo credo di no. Ci sentiamo dopo la borsa, 800 24 00 24, numero verde. Direi veramente soddisfacente, ecco, ragazzo è molto più tirato, anche da fisicamente tirato, si sta allenando molto bene, con grande impegno, anche molto motivato di questa nuova avventura, per cui sicuramente direi che è stato un riscontro rassicurante. Tutti convocati. È ancora presto per dirlo, mancano ancora 12 gare, quindi è ancora troppo presto, però sicuramente noi ce la mettiamo tutta per fare il miglior risultato ogni gara e ci impegniamo sempre per trovare qualcosa per migliorare sempre la moto, e quindi non bisogna mai mollare. Adesso pensiamo a Barcellona, il Gran Premio di Catalunya, è una pista che mi piace e speriamo di fare un buon risultato. Questo naturalmente non era né Castellacci né Prandelli né qualcun altro della nazionale, questo era Romano Fenati, permettetemi di divagare un po' perché ne ho voglia, mentre vi posso anche dire che sul calcio Alex è a Milano, difensore brasiliano sta per firmare, o meglio il suo procuratore sta per firmare per il Milan, il profilo è quello ideale, cioè uno svincolato contratto biennale, operazione da Milan questa. Però voglio divagare su Fenati perché nel moto mondiale più scontato che c'è, che io mi ricordi, ma forse di sempre, ci stiamo appassionando un'altra volta, non tanto per i podi ritrovati di Valentino Rossi, quanto per sto ragazzino tracagnotto che l'altro giorno ha vinto anche al Mugello con una moto tutta tricolore, pagina da libro cuore motociclistico, però vado a guardare l'albo d'oro ed è dal 2004 con Dovizioso che non vinciamo un maledetto campionato di 125 Moto3, chiamatela come volete, sarebbe anche ora. Alessandro Pasini, inviato del Corriere della Sera e nostro amico, ciao Alessandro. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Buongiorno. È ora, no? È ora, è tempo? Jack Miller permettendo, io adoro però. Che è bravo e tra l'altro Jack Miller, Fenati, nessuno spagnolo, quindi insomma, ma volessi questa, anche questa è una notizia, anche se non abbia niente contro di loro, niente... ma forse sto ciclo sarebbe bene che in qualche sport, no, cominciasse a finire. Che palle, no, sai, ci sono i miei amici che impazziscono nel moto mondiale, mi dicono: ma sai perché io godo? Perché da un po' in moto 3 non sento, quest'anno non ho ancora sentito suonare l'inno spagnolo. Sì. Infatti anche un grande tormentone in sala stampa tra i giornalisti. Sì. Scherza, sono sempre simpatici i colleghi spagnoli. Comunque sì, Fenati è una bella, non diciamo una sorpresa, più che altro sta raccogliendo quello che avevamo già intuito quando esordì nel 2012. Lui vinse, pensate, alla seconda gara in carriera e fece secondo, se non sbaglio, alla prima. Poi aveva un anno difficile, eccetera, eccetera, quindi insomma si erano visti i semi del campione. Del campioncino, via, dai, sì. Perché sennò se parliamo di Davide già adesso gli facciamo del male, adesso presto, cominciano tutti i paragoni. Però senti, Valentino, che è il suo team principal, come si dice, ne parla bene, Valentino se ne intende, è uno dei suoi maestri e quindi, senti, speriamo, lui è bravo, è completo, sembra aver messo la testa, insomma, sull'obiettivo, fonda 18 anni, quindi ma mi sembra che è uno molto, molto cazzuto, molto determinato, molto grintoso, pilota molto diverso da Valentino Rossi strutturalmente come stile di guida, eccetera, diciamo che per chiarire. Di Valentino si dice che abbia questa capacità di dare tutto in gara, no? L'animale da gara, non è bravissimo in qualifica ma in gara si trasforma. Ha la struttura un po' la Marquez, no? Valentino lo chiama il cinghialotto alla Marquez, hai ricordato il suo fisico, c'è questo stile così. Qualcuno parla anche del primo Lorenzo, cioè l'aggressività cattiva, ma comunque nel caso di Fenati anche molto corretta. Insomma, sembra pescare un po' qua e là da tutti, ha avuto grandi maestri, a me piace anche questa cosa, cioè è un po' il simbolo che i grandi maestri servono ancora, grazie a Dio, nella vita, perché prima la Federazione Italiana che l'ha tirato su, adesso con Valentino c'è un duo che lo guida, un duo mica male, perché c'è Vittoriano Guareschi, ex Ducati, ex collaudatore, cioè un ragazzo di grandissima esperienza e umanità, e Rossano Brazzi, che era il capotecnico di Valentino Rossi, certo, 16 anni fa, che lo tiene, come dice lui, mi tiene a baghetta, lui è a scolare, dice a baghetta, io credo voglia dire a stecchetto, insomma, ma è un grande romano, e gli, insomma, gli raziona anche il cioccolato, gli fa fare le relazioni scritte dopo le prove, per insegnargli a trasmettere le indicazioni al box. Insomma, c'ha dei maestri che lo tengono sotto controllo e lui mi sembra che poi il talento ce l'abbia, per cui speriamo bene. Adesso guardavo proprio ieri, Valentino alla sua età aveva vinto un gran premio di più, 5-4. 5-4 addirittura? Siamo lì, sì, uno in più, quindi dai, siamo lì. Siamo in linea di galleggiamento, tra l'altro... Una stagione in più e in quell'anno Valentino vinse, quindi insomma, Romano si tocchi tutto, ma però... Poi però è presto per dire che no, diventerà come... No, è presto per qualunque cosa, Alessandro, però, è presto per qualunque cosa, sarebbe anche un eccessivo carico di pressione. Poi noi facciamo sto mestiere, quindi un po' ci marciamo, no? Poi è evidente che è presto per tutto, però io sono molto curioso, insomma, di vedere qualche nuovo prodotto uscire da questa nuova filiera che è la Moto 3, la Moto 2. Tante volte ho detto, mi è capitato di dire magari sbagliando, che Marquez è il prototipo del nuovo pilota che esce da queste nuove categorie, cioè è il pilota 2.0, qualcosa di diverso rispetto a quelli che uscivano da 125, 250, quindi la mia curiosità è anche questa, cioè vedere dove questa filiera può portare a Romano Fenati, che di talento ne ha. Sì, tra l'altro guarda, non dimenticherei neanche Andrea Iannone in moto, tra l'altro insieme a Fenati, ragazzini bravi, Bagnaia, Bastianini, insomma c'è gente che si muove, e non dimenticherei neanche Iannone, che insomma in MotoGP sta facendo vedere buone cose, la Ducati non è competitiva, ma lui, insomma, ad alti livelli, ma lui fa vedere, quindi... Ma me l'aspettavo peggio, posso dirti, no, ma anch'io, dopo le ultime stagioni. Vero, anch'io, cioè, il regolamento Open l'aiuta, va bene in qualifica, dura 3-4 giri, poi si spegne, però... Insomma, nel complesso, cioè, diciamo che c'è carne al fuoco, ecco, se vuoi, insomma, noi abbiamo scritto, abbiamo detto, no, motociclismo italiano, dietro Valentino non c'è niente, ora, come si suol dire, qualcosa si muove. Poi, guarda caso, lo muove ancora lui, perché questa sua passione da imprenditore e manager la trovo fantastica. Sì, anch'io. Ma perché poi tante volte si equivoca, no? Si pensa che il campione, anche perché ci sono campioni così, sia solo professionale, individualista, edonista e tutto quanto. Lui è uno che poi la sua vita è andare al ranch a correre, quando non fa le gare va al ranch con gli amici, cioè è così come. E quindi questo a me piace, e piace ai motociclisti, però piace a quelli che si avvicinano, no, da profani e possono trovare nuovi personaggi. Senti, un'ultima cosa, Ale, invece sappiamo che allora il 15 giugno è il giorno in cui, vabbè, nella notte tra 14 e 15 gioca l'Italia contro l'Inghilterra prima del mondiale, però c'è anche Barcellona, il Gran Premio di Barcellona. Senti, ma il piano di sopra, anzi due piani sopra Fenati, MotoGP, io mi sto sinceramente un po' annoiando, ma come tutti, perché la bravura di Marquez fa calare la libido di chiunque. Possiamo pensare di avere qualcosa di diverso a Barcellona? No. Allora, io credo che dobbiamo essere contenti di vedere gare come quella di domenica. Dove secondo me ha scherzato. Questa è una teoria che hanno tanti. Sai, lui ha detto che stavolta era al limite. Lui ha ammesso che a volte a margine, come l'aveva Valentina ai tempi. Stavolta ha detto che ha faticato. Comunque, Lorenzo ha fatto la gara più bella e non è riuscito a vincere. Io temo che si andrà 7-7. Temo che questo le possa vincere tutte, salvo gli imprevisti dei motori, però sai, è vero, la noia, però di fronte a certi fuoriclassi è un sublime della noia, non so come dire. No, cioè, però è vero, capisco cosa lo guarderei correre tutto il giorno, esatto, sportivamente parlando la mancanza di incertezza è veramente lo so, è come quando Ginobili no, ti fa 45 punti, quando il giocatore ti fa le triple Ronaldo, ti fa, dice, ma sempre segna sempre lui, però che devi fare? Sul cappello, che vuoi fare? Sono gli eletti, però insomma vediamo, qualcosa magari. Beh, Barcellona è un circuito dove Valentino tradizionalmente va bene, Lorenzo pure. Lorenzo gioca in casa, però sinceramente ci passa anche la voglia di azzardare previsioni diverse, anche perché non so, possiamo dirlo, ma non saremo così realisti. Grazie, Ale. Ormai non possiamo più dire niente, inventare niente. No, ma cosa vuoi inventare? Banali anche noi. Cosa vuoi inventare? Grazie, dai, Alessandro. Noi. Grazie a te. Un abbraccio, ciao. Alessandro Pasini. Ciao. Davide Vicenza, buongiorno. Buongiorno Carlo, grazie della convocazione. Lei. Volevo legare, diciamo, i due rossi, quello di Tavuglia e quello del New Jersey. Bravo, bravo. Intanto una cosa, un complimento, perché un anno e mezzo fa circa, parlando con Graziano durante la trasmissione, avevi pronosticato il fenomeno Marquez, che era semi sconosciuto a chi come me non segue molto le moto. E quindi questo è un fenomeno veramente incredibile. Spaventoso Marquez. Tornando a Pepito Rossi, premetto, sono un tifoso della Viola, quindi posso parlare, diciamo, a ragion veduta sia di Pepito, sia di Prandelli che di Montolivo. È vero, come diceva l'ascoltatore prima, che la perdita di Montolivo secondo me non è una perdita fondamentale, anche se è un uomo di Prandelli. Riguardo alla non convocazione di Pepito, io credo che Prandelli sia stato un po' ipocrita nel dire che la scelta è tecnica, perché ritengo che Rossi sia l'attaccante italiano tecnicamente più forte, al di là di Balotelli, che dobbiamo ancora vederlo nel suo potenziale. Ma non è il contrario, non è che, cioè, se tutti ci dicono che Rossi sta bene, dire che è una scelta fisica, quello sarebbe forse ipocrita, ma dire che è una scelta tecnica vuol dire prendersi delle belle responsabilità da parte di Prandelli. Poi vediamo cosa dice oggi in conferenza stampa, perché è chiaro che dopo l'esclusione, dopo il tweet di Rossi, penso che Prandelli avrà qualcosa da spiegare ancora. Vado un po' di corsa, grazie Davide. Gian Pietro, Brescia, buongiorno. Buongiorno, niente, volevo ritornare anch'io sul discorso dei convocati, no? Secondo me Prandelli, al di là del discorso di Rossi, che secondo me è un errore gravissimo, ma proprio è tutta l'impostazione dell'attacco che secondo me è sbagliata. Noi non abbiamo uomini che sanno stare in area, che se il difensore sbaglia può fare gol. Non li abbiamo, non abbiamo i Gilardino, non abbiamo i Toni, non abbiamo un Rossi che in 20 partite ha fatto 17 gol. E aggiungo destro, aggiungo destro. 10 gol, 8-10 gol a partita. Aggiungo giocatore in questa caratteristica, c'era anche destro che però è stato escluso, ma infatti io questi due me li sarei portati. Non ho niente contro Insigne, però diceva anche prima con Cabrini, si guarda la risultanza del campionato, se si guarda la risultanza del campionato Insigne lì è un mistero, perché anche lui, come Montolivo, non ha certo giocato una grande stagione. 3 gol, 51 partite, 3 gol in campionato, sono pochi per un attaccante, sono pochi, sono nulla. Traffico. C'è il traffico, come diceva quel famoso spot, non si interrompe così un'emozione, hai capito? Tutti convocati. Lepo, lepo. É tão gostoso quando eu ha, ha, ha, ha, ha, ha. O lepo, lepo. Era in difesa, ma è andata a fare. Che numero è? Che ha fatto quel fallo? Ah, non l'ho visto, l'ho perso. Chi è, Paolo? Chi è? Che numero? Non l'ho visto, porca vacca, non l'ho visto, l'ho perso. E ricordo. Paolo, Paolo, Paolo, Paolo, Paolo. Luce Casillas che è lì, sta lì, Carlo, lui la palla. Quella, vieni qua. Fuori gioco, l'ha toccata, l'ha toccata. Basta, guardiamo dentro l'area adesso, basta. Ma ce n'è una marea lì dentro, non vedo niente, c'è troppo casino. Minchia, quanti ce ne sono? 7-8, tutti fuori gioco. Carlo. Poi. Ciao. Sara, puntata eccomi. Molto di TT questa. Prima c'era qui Antonio Cabrini, adesso L'ho Sara sentito, Tardelli. L'ho sentito. Cos'è sta Infatti roba? Me lo potevi anche salutare. Già fatto. Bravo. Questa roba sono Roberto Rosetti, Alessandro Griselli e Paolo Calcagno che arbitravano gli europei nel 2008 quando il CT era Donadoni. Chissà se qualcuno se lo ricorda ancora. No, io... Brava, certo, ma non c'è bisogno di ricordarlo, basta leggere la cronaca, cioè uno degli allenatori anche più gettonati del momento, era anche andato in Europa prima che gliela levassero. Ma e quindi questo era l'audio? Era l'audio proprio della partita che giocano gli arbitri, tratto da un documentario che consiglio di guardare, che si chiama L'Esarbitro, ossia gli arbitri, che risale un po' di anni fa, dove questo regista francese ha deciso di seguire la partita degli arbitri, non quella dei giocatori, e forse guardando questo documentario ci si arrabbierà un po' meno di fronte a eventuali sviste o errori arbitrali, perché si capisce com'è difficile. Quanto è difficile e quanto è appassionante anche la loro di partita in realtà. Sì, molto interessante, molto interessante. Sul fatto che ci si arrabbierà di meno non ne sarei così convinto. Secondo ma me sì. Ma... comunque, ma dai, comunque, ma perché tu ti arrabbi sempre però, io non mi arrabbio carattere. Mai. Mamma mia, ma sempre. Io mai. Comunque, perché ho iniziato così, Carlo dimmela, mio? Dimmela. Perché dobbiamo fare il tifo certamente per la nostra nazionale, ma anche per l'unico arbitro italiano che sarà in Brasile. Ma tu sei matta. Ma va, Nicola Rizzoli, ma, un po' matta sono. No, però. Ma fare. Allora, io credo che forse, ma non sono certo che se la sua mamma e il suo papà o i suoi parenti più stretti faranno il tifo per Rizzoli, tutti gli altri per forza non possono tifare per Rizzoli, cioè faranno il tifo per la sua parte di gare che dirigerà. Ah, beh, c'è tutto un pezzone prima però in cui possiamo fare il tifo. Sì, va bene, ma è ovvio che Rizzoli in finale escluderebbe automaticamente l'Italia, quindi vedi tu. Ma mi devi mettere in difficoltà inutilmente. Comunque un ascoltatore bravissimo, Ulisse, bel nome, scrive per Genta, poteva aggiungere anche per me, Kill the Referee, il film, è vero, questo è il titolo inglese, ma il titolo francese è L'Esarbitre. Vedi come sono colti i tuoi ascoltatori? Grande, incredibile. Grande. Comunque Rizzoli è un bambino, ha 32 anni, fa l'architetto, un po' un intellettualoide perché lui legge, ama la lettura. E sai che cosa ha detto ai giocatori, a Prandelli? Li ha incontrati proprio pochi giorni fa a Coverciano. Cosa ha detto? Si è raccomandato perché ha detto: ragazzi, quest'anno la FIFA ha dato disposizioni precise, cioè quella di tutelare l'immagine del calcio e del gioco, quindi zero atteggiamenti di protesta. Io dico, certo, Carlo, l'immagine del calcio e del gioco va bene, però allora il Qatar dove lo mettiamo? Il Qatar? Al Qatar nel senso dei mondiali, la nel 2022 tutta questa storia delle tangenti. Mettiamo i mondiali da un'altra parte. Sei favorevole? Eh sì, a parte io sono contrario, sono sempre stato contrario all'assegnazione dei mondiali, ma è stato lo stesso Blatter, forse ho fatto una sciocchezza, il che con l'autostima che ha quel signore di se stesso, insomma, è quasi incredibile. Poi quando ho sentito l'altro giorno di questa cosa, ho detto sì, vabbè, la notizia dov'è? Dove sta? Che hanno dato le mazzette. La notizia è che la scrivono sui giornali, e questa è la notizia, sì, che non si bisbiglia più, ma viene addirittura messo nero su bianco. Comunque, secondo te, chi sarà il primo a prendersi un giallo per queste ammonizioni evitabili? Dell'Italia? Sì. Troppo facile, allora troppo facile dire Balotelli. Franco Piantanida dalla regia suggerisce anche qui De Rossi. In regia si sono scatenati anche qui. Cosa dicono? Valerio Rocchetti banalmente infatti ha detto Balotelli, vedi? Siamo uomini banali. Tu chi dici? Chi è il primo? Ma no, in realtà non lo so, mi verrebbe da dire Cassano. Ti verrebbe da dire Cassano? Sì, perché è talmente tranquillo adesso che non vorrei che poi gli parte la brocca, capito, sul più bello. Sì, questo può essere, questo può avere un senso, però insomma io voglio i giocatori, li voglio vedere anche partecipare al gioco, quindi la storia dei soldatini a me non piace tanto, quindi è ovvio che il cartellino mondiale non si scherza, perché ovviamente si rischia di saltare partite importanti per squalifica. Anche perché così se loro si fanno ammonire per queste ragioni fanno crollare la ragione dell'esistenza del codice etico di Prandelli, sì, quindi sarebbe codice, abbastanza così. Che sarebbe anche ora crollasse, ma comunque questa è un'altra storia. Questo lo dici tu. Comunque, quello che ti volevo dire è che da donna ho notato una cosa, Carlo, che quale? Secondo me tu non hai notato. Ma hai visto che coincidenza che sia Buffon, che Casillas, tutti e due, no, i portieri della nazionale italiana e spagnola, sono fidanzati con due giornaliste sportive? Brava. Ne vedremo delle belle? Sì, qualche obiettivo? secondo me si faranno concorrenza, chi sarà la più brava, chi avrà l'ultimo scoop, vanno tenute sotto controllo la D'Amico e la Carbonero, questi mondiali. Se, beh, la Carbonero si sa, l'area D'Amico non lo so, non è che abbiamo, io non ho notizie ufficiali, non ho letto comunicati stampa, ma comunque. Vabbè, addio addirittura i comunicati stampa nell'era di Twitter. Nell'era di Twitter, appunto. Allora, dimmi. No, mi suggeriva Franco dalla regia che il primo ammonito dove agli europei, Balotelli, naturalmente contro la Spagna, prima partita, 37 minuti di gioco, giallo. Secondo me potremmo anche rischiare di vedere un bis in questo momento. Speriamo di no, speriamo di no. Senti, la scorsa settimana un ascoltatore, tra i vari messaggi che mi scrivono, certi carini, altri un po' meno, se come sapesse, quest'ultimo che è arrivato alle 15:53:23. Sapessi a me. Esatto, la scorsa settimana mi ha chiesto, cioè ha scritto un ascoltatore, se sapevo come mai noi indossiamo, i nostri giocatori hanno addosso una maglia azzurra. E faccio una piccola premessa: io sono torinese, quindi un po' sabauda, e quindi sì, lo so, perché la maglia azzurra che si sono messi addosso per la prima volta nel gennaio lontanissimo del 1911 è azzurra in onore dei Savoia, perché il blu Savoia rappresentava il colore ufficiale della dinastia dei Savoia, quindi non potevo non saperlo essendo delle mie parti. Questa però la sapevo anch'io. Domanda da trivia, trivialone. Senti, qua dicono che Chiellini sarà il primo. Vabbè, facciamo allora, apriamo non le scommesse, ma apriamo un toto ammonito. Io preferirei fare un toto sul primo gol che segneremo all'Inghilterra. Bravo, positivo e costruttivo. Perché glielo facciamo ancora all'Inghilterra, ma io insomma direi che più quello del toto ammonito mi interessa poco, no, più che altro insomma speriamo che non si esageri col buonismo, che io non lo sopporto, quindi che i giocatori facciano, i giocatori si divertano e ci diano la loro emozione, che è quello, la loro grinta. Saretta, ti saluto perché devo far sentire il migliore in campo che prende la maglietta. Ciao, prometto che te la mando per i mondiali, maglietta di tutti i convocati. Ciao Sara Tardelli, migliore in campo. Davide, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io chiamo perché non ho sentito il bisogno, non c'è neanche se fosse bisogno di difendere è radiofonicamente Romulo, perché credo che non sia assolutamente una posizione di comodo o furbesca. È andato inaspettatamente, secondo me anche ingiustamente, convocato, perché non era neanche mai stato per un secondo nei pensieri di Prandelli, quindi non era giusto neanche da prima che andasse in Brasile. È stato convocato e alla prova dei fatti era certo di andare via. C'è stato una riacutizzarsi del dolore muscolare, perché gli fanno 2-3 allenamenti al giorno e lui si è reso conto che avrebbe potuto solo peggiorare, e tra le lacrime, a tu per tu con una persona umana che è Prandelli, ha detto no, io non ce la faccio. Ed ecco a chi va la maglietta di tutti i convocati. Oh, vi ricordo che potete anche beccarne una con autografo di un supercampione e con la possibilità di partecipare a tutti i convocati per un giorno. Mandateci un file audio al tema i 23 di Prandelli, d'accordo sì o no, perché trovate tutto sul nostro sito radio24.it. mamma mia che trash, per caso stavo guardando la pubblicità All in or Nothing, la potete trovare credo sui giornali. De Rossi che tiene in mano mani sanguinanti con non so che cosa, un cuore dell'interiora. Va bene che al trash non c'è mai fine, ma questa mi pare addirittura troppo, ragazzi. Io penso che noi siamo qua per dire un certo numero di fesserie. Già, caro Modini. Sentiamo domani Franco Piantini, autore di questo programma, Claudio Schiattoni in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Domani dopo il GR delle 2 tutti convocati. Ciao.